E allora torniamo in voce, questo è sempre Silenzio Assordante. Come preannunciato abbiamo in collegamento una compagna che ci parlerà appunto del campetto occupato. Quindi insomma io ti cederei subito la parola e ti chiedo, visto che insomma nell'ultimo periodo sono successe delle cose lì, ti chiederei innanzitutto di cominciare, se hai voglia, con nel raccontarci un po' l'esperienza del campetto, insomma da quando c'è e quello, le iniziative che avete fatto. Allora sì, certo, ciao a tutte e tutti. Intanto io sono Silvia del campetto occupato di Giulianova e allora il campetto nasce un anno e mezzo fa, a febbraio del 2016, quando appunto un collettivo di persone, di compagni e compagne che già si vedevano da un po', hanno deciso di riappropriarsi di uno stabile in disuso, appunto il campetto, e tra l'altro di proprietà di un ente privato cattolico legato alla chiesa. E da questa esperienza appunto nasce un posto liberato, un posto antiautoritario e libertario, in cui sono state portate avanti varie esperienze di lotta e di rapporti tra le persone, appunto in base orizzontali e ma non sottoposte a una logica commerciale di dominio che troviamo normalmente nella società. Sono state fatte varie lotte anticarcerarie, presidi al carcere e benefit per i compagni arrestati. Abbiamo partecipato varie volte ai presidi al CIE a Roma e è stato dato spazio a vari percorsi di lotta presenti nel mondo, nelle realtà italiane del nostro territorio, dalla lotta no TAV, la lotta no TAP, contro le varie nocività. Quindi ecco, è un posto in cui si creano rapporti, in cui si creano delle basi appunto per poi uscire fuori e andare contro quello che non ci sta bene. E detto ciò, penso che l'avrete accennato, una settimana fa, la notte tra il mercoledì e giovedì scorso, il 20 e il 21 settembre, il campetto è stato ritrovato bruciato la mattina di giovedì, e l'incendio ha causato gravi danni alla struttura, e anche sul giornale è uscito che non è un cortocircuito, nel senso è stato un incendio doloso. E allora vabbè, il fatto sicuramente è grave, è gravissimo che un posto di questo tipo venga dato alle fiamme. Certo. E vabbè, per contestualizzare anche un po' l'avvenimento, diciamo la proprietà, l'ente proprietario del posto, da quando noi l'abbiamo occupato, tramite voci di corridoio si sapeva che aveva in progetto, insomma così diceva, di volerlo riprendere e di farci un progetto sociale, però ecco, erano voci di corridoio e poi si sa tra il dire e il fare poi delle istituzioni. Certo, ecco, infatti ti chiedevo, ma in questo anno e mezzo avete ricevuto pressioni sia da parte insomma della polizia o di qualche tipo, minacce di sgombero, guarda, cose del genere? A parte i primi tempi in cui ci stava un po' più di tensione, c'è stata la presenza degli sbirri nei primi giorni d'occupazione e anche qualcuno della proprietà è venuto a chiederci di andare via, dopo un periodo iniziale no, non ci sono state altri avvenimenti, appunto, se non poi queste voci di corridoio che dicevano che stavano partendo i progetti dell'ente proprietario per rimettere a posto, insomma per diciamo bonificare il posto, per farci qualcosa a lui. Se non che un paio di settimane prima dell'incendio questa cosa è uscita su un giornale locale, appunto, che l'ente proprietario aveva intenzione, insomma, si stava attivando per avere i fondi e per riprendersi il posto. E questo, vabbè, per contestualizzare un po' sì, sì, tutta la situazione, momento, insomma, lì, sì, certo, il momento in cui è avvenuto l'incendio. E qualche giorno prima, durante un'iniziativa, si sono presentati degli sbirri a chiedere i documenti e hanno cercato di entrare nel posto, ma insomma ne erano un paio, però questa cosa non era mai avvenuta. Mm-hmm. Cioè che proprio che provassero, magari sì, si vedevano là intorno a qualche iniziativa, però che provassero poi a voler entrare e a chiedere documenti, quello non era successo mai. Ok. E, niente, ecco, questo diciamo i fatti e l'esperienza e la storia del campetto. Ok, dopo questo insomma fastidioso, diciamo, chiamiamolo così, evento, insomma, che è successo, poi com'è stata un po' la reazione sia da parte vostra, ma anche un po', insomma, della città, della gente che vi sta un po' intorno, di chi si è solidarizzato con voi nel tempo, di chi ha frequentato il posto? La nostra risposta è stata, vabbè, intanto ci si è visti subito, si è indetta un'assemblea pubblica per qualche giorno dopo e è stato fatto un comunicato in cui siamo più arrabbiati e coesi di prima, nel senso questa cosa è stata un po' sia un momento anche per far riavvicinare persone che non frequentavano il posto da un po', e sì, appunto, per rilanciare le nostre idee, la nostra lotta in maniera più arrabbiata di prima, perché consideriamo l'attacco che c'è stato un attacco a un'idea prima di tutto, più che a un posto fisico. Quindi diciamo, chi si sente proprio a quest'idea anti-autoritaria di autogestione, di occupazione, si sente proprio anche la questione dell'incendio. E certo. sono venute anche persone, compagni e compagne delle zone limitrofe, da Ancona, da Teramo, da Pescara, ma persone che per l'impossibilità di distanze chiaramente non si vedono quotidianamente, e quindi c'è stata una grande solidarietà anche poi in tutta Italia. E niente, questa assemblea pubblica è andata bene, si è deciso di creare di costruire insieme un corteo per il 14 ottobre, il sabato 14 ottobre. Mm-hmm. E ecco, se da una parte la risposta dei compagni, delle persone vicine a noi è stata molto calorosa, la risposta della città e delle persone è stata pressoché nulla. E questa cosa, vabbè, la dice tanto anche sull'interesse poi delle persone per alcune questioni. E certo, poi Giulianova, no, insomma, è anche un posto abbastanza piccolo, quindi volevo chiedere, appunto, prima ti ho chiesto un po' su questo, la gente intorno, così, perché poi insomma anche l'intorno, se non ricordo male, ci sono diverse abitazioni, cioè, qual è anche il rapporto col vicinato, più o meno, se qualcuno si è fatto vivo, si sono avvicinati, perché comunque anche ho visto le foto di quello che è successo e insomma mi è sembrato un bel disastro, cioè comunque sì, appunto il posto è in mezzo alle case, quindi esatto, c'è stato pure pericolo che prendesse le abitazioni accanto, nel senso c'erano gli alberi vicino poi delle abitazioni, quindi per la gravità del gesto secondo me ci sarebbe dovuta essere un minimo in più di reazione da parte del vicinato. C'è da dire che diciamo non è che ci siano rapporti idilliaci, perché quella è una zona abbastanza ricca, borghese, quindi all'inizio dell'occupazione si è provato ad aprirsi un po' verso il vicinato, a fare delle cose, delle merende, ad aprire il posto, ma diciamo non è stato molto molto permeabile, anzi spesso, cioè senza neanche dirci le cose in faccia, spesso si sono lamentati del posto nell'ottica che un posto così gli svaluta il valore zona. Della casa se la vogliono vendere. Certo, vabbè, quella è un po' sempre la solita scusa che insomma. Sì. E appunto, no, ma parlaci un po' di più di appunto di questo corteo, perché c'è stata questa assemblea pubblica e poi insomma insieme immagino avete deciso di fare questo corteo per il 14 ottobre lì a Giulianova, giusto? Sì, allora il corteo sarà nel primo pomeriggio a Giulianova e si farà un percorso dal, diciamo, dal Lido, dalla zona del mare, e arriverà su al campetto, e il campetto non sta nella parte alta della città. Quindi farà un bel giro, sarà un corteo determinato, faremo il percorso che abbiamo deciso per dichiarare questa cosa, che quello che è successo è molto grave, e anche se anche persone con diciamo che hanno un vissuto diverso dal nostro, però una cosa così, ti bruciano una cosa accanto a casa tua, ti deve un minimo a fare due domande e far incazzare. Certo. E poi la sera ci sarà un'iniziativa, una serata al campetto, perché comunque la nostra volontà, quello che abbiamo deciso tutti quanti insieme, è che il campetto continuerà a essere e ad esistere, anche se la struttura fisica è rovinata, nello spazio esterno continueremo a farci delle cose, vedremo un attimo anche come riuscire insomma ad ovviare il fatto che la struttura interna è bruciata, perché adesso comunque è proprio inutilizzabile, anche difficile risistemarla per renderla usufruibile in qualche modo. Beh sì, questo stiamo un attimo cercando di valutare se conviene o non conviene, certo, mettere a posto quella stessa struttura o se magari creare altro lì nello spazio limitrofo, perché comunque appunto il campetto è un ex campo di calcio, quindi c'è un grande spazio esterno, e comunque appunto il campetto continua ad esistere, continua ad esserci, sicuramente ancora più arrabbiato di prima. E appunto dopo il corteo del 14 ottobre la sera faremo concerti, musica, una serata lì nello spazio esterno del campetto, anche per raccogliere dei soldi per rimettere a posto tutto quanto la struttura. Bene. E anzi, speriamo che vengano tanti compagni e compagne anche da fuori, da Roma e da qualsiasi altro posto, perché è importante dare una risposta che sia appunto numerosa e arrabbiata dopo quello che è successo. Assolutamente. Quindi sì, infatti l'invito è per... Certo, ripeti magari l'appuntamento, anche a che ora, dove ci si vede, così anche chi ci sta ascoltando insomma magari vuol venire, insomma noi è un posto che abbiamo frequentato con piacere nel corso del tempo, quindi sicuramente rilanceremo l'appello anche qui via radio o comunque con i mezzi che possiamo. Allora, il corteo sarà sabato 14 ottobre, l'inizio del corteo è alle ore 15. E il punto di ritrovo ancora ve lo faremo sapere. Ok. E quindi allora, sabato 14 ottobre alle ore 15 a Giulianova ci si ritrova e si andrà tutti quanti insieme fino al campetto, dopodiché ci si fermerà là per la sera. Perfetto. Va benissimo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, quello che vuoi, se no per noi insomma può andare anche bene così. Guarda, no, per il momento non ci sta nient'altro da aggiungere, comunque qualsiasi cosa ci sta la pagina Facebook del campetto, qualsiasi anche aggiornamento, comunicati vecchi potete... Ok, dici come, magari ripetici come si chiama la pagina Facebook, così chi campetto vuole... Campetto occupato. Perfetto, quindi campetto occupato, lì ci sono tutti gli aggiornamenti. Bene. Esatto, va bene, poi noi magari ci riaggiorniamo anche prima del corteo. Assolutamente. Poi magari ci riaggiorneremo anche dopo il corteo, così magari ci raccontate anche com'è andata e come sta proseguendo il tutto. Noi quindi ti ringraziamo e Grazie a voi per averci dato spazio. Figurati, è un piacere come sempre. E niente, ci risentiamo. Arrivederci il 14. Sicuramente. Ci sentiamo presto e ci vediamo il 14. A presto. Un abbraccio, ciao a, a presto. Un abbraccione. Ciao. E allora, quella che abbiamo appena ascoltato era appunto una corrispondenza con una compagna del, del campetto occupato di Giulianova, dove appunto una bella esperienza che dura ormai da un anno e mezzo, un'esperienza che, come dicevo, abbiamo frequentato nel tempo con molto piacere. Purtroppo nell'ultimo, insomma, l'ultima settimana c'è stato questo fattaccio che il posto è stato messo alle fiamme praticamente, quindi comunque lo spirito mi sembra buono, i compagni vanno e le compagne vanno avanti e sabato 14, lo ricordiamo, c'è questo corteo che si svolgerà nella città di Giulianova proprio per rispondere a quello che è successo. E nulla, io non ho altro da aggiungere, non bene, so perché mi guardi. Non lo so, che ne so, questa villago al microfono pronta. Va bene, quindi per questo spot, per questa questione, diciamo, va bene, ci prendiamo una pausa musicale e poi riprendiamo con la scaletta, tra poco.